Tempo di Sport di Gigi Garanzini. Buon pomeriggio, questa è la grande serata del Napoli, mai così vicino a un quarto di finale di Coppa dei Campioni. Sappiamo, del Napoli sappiamo molto, se non proprio tutto, i pregi, i difetti, i punti di forza, i punti deboli. Sappiamo invece abbastanza poco del Chelsea, se non che non è più in questo momento lo spauracchio delle ultime stagioni, al punto da essere ampiamente alla portata, almeno sulla carta, del Napoli. Ci aiuta a decifrarlo, chi se non Fabio Tavelli. Buongiorno Fabio. Buongiorno Gigi, buongiorno a tutti. Oggi cercherò di essere più sintetico perché insomma ti curiamo, quindi sei appena staccato dal desk di Sky Sport 24 e grazie per questa decina di minuti. Dunque, aiutaci a decifrare un Chelsea che si è smarrito e che insomma può essere pericoloso, a parer mio, per il, non so come dire, il colpo di coda, qualcosa del genere, ma certamente non è quella macchina che eravamo abituati a ricordare nelle ultime stagioni. No, c'è una bilancia dove da un lato c'è la grande esperienza, parliamo di una squadra che negli ultimi 9 anni è sempre stata in questi quartieri, quindi è una squadra che sa benissimo come si distribuisce l'ottica dei famosi 180 minuti, sa bene di essere una squadra che, avendo vinto il girone, ha la possibilità di giocare la seconda in casa e quindi eventualmente anche dei tempi supplementari o dei calci di rigore. Questo va tenuto presente, è vero. Dall'altra parte però c'è una squadra in flessione, cioè il Chelsea, contro una squadra in crescita. Il Napoli di un mese fa era un Napoli che ci avrebbe preoccupato, il Napoli di adesso è un Napoli in condizione, in temperatura, diciamo. Il Chelsea invece è calato, è costretto a un replay in FA Cup contro il Birmingham, quindi con una squadra del Championship, è una squadra che in campionato è staccatissima dalla vetta, rischia di non fare la prossima Champions, peraltro come il Napoli, e dovremmo anche tenere conto di questo, che è molto più importante, sembra un paradosso, ma è molto più importante garantirsi la prossima che continuare a vivere questa. Però è evidente che in questo momento le squadre devono pensare a questa e non alla prossima. È una squadra che prende un sacco di gol, Čech ha preso molti più gol di De Santis, è una squadra con una difesa a tratti anziana quando gioca John Terry e a tratti distratta in David Luiz, ha grande qualità David Luiz, ma è un giocatore che assomiglia a volte a Lucio, molto bravo nell'uscire palla al piede, molto spettacolare in certe movenze, ma tante volte un pochino distratto, e questo il Chelsea lo paga, anche perché è un centrocampo a tre dove ci sono buoni giocatori come Ramirez, come Raul Meireles e come evidentemente Lampard, ma che è troppo poco protetta la difesa da questo centrocampo a tre, perché Villas-Boas gioca con Sturridge, Mata e Drogba, Fernando Torres, comunque giocatori molto offensivi che aiutano poco la fase di mezzo, e questo il Chelsea lo sta pagando molto molto caro. Sì, detto che il Napoli nella fase autunnale si è permesso il lusso di pareggiare a Manchester e poi vincere in casa contro il City, vuol dire che un parametro inglese ce l'ha, c'era già in carniere, ed era un parametro superiore oggettivamente a questo del Chelsea. Vogliamo raccontare la curiosa storia del perché Mazzarri non sarà in panchina e di un ricorso che forse poteva essere evitato vista l'accoglienza che ha avuto? Mazzarri è stato squalificato per 2 giornate perché nel secondo tempo di Villarreal Napoli era stato espulso. Era stato espulso perché aveva allontanato Nilmar dall'area tecnica. Nilmar era finito nell'area tecnica di Mazzarri, quindi nella zona di competenza di Mazzarri. Mazzarri non era uscito da questo. Nilmar, eravamo nel secondo tempo, all'inizio del secondo tempo, il Napoli stava facendo fatica. Mazzarri, per accelerare le procedure di rimessa in gioco del pallone, ha allontanato Nilmar. Non si può mettere una mano addosso a un calciatore avversario, l'arbitro lo ha espulso. Lo ha espulso, in realtà Mazzarri si è un po' espulso da solo, intanto perché Mazzarri, che ha un carattere focoso, non ha aperto bocca dopo aver allontanato Nilmar, e poi perché, rispondendo a una domanda nel post partita da parte di Gianluca Vialli, lui aveva sostanzialmente lasciato intendere che questa espulsione lui l'avesse un po' cercata, cioè voleva dare una scossa. Esatto, aveva un po' rivendicato questo gesto come la svolta psicologica della partita per la squadra. La partita si stava incanalando in uno 0-0 pericoloso, e effettivamente poi la squadra ha avuto un soprassalto, non ha pagato la mancanza di Mazzarri, ha avuto una scossa e la partita poi il Napoli l'ha vinta, e questo fece passare Mazzarri da questo punto di vista anche in, non dico per un genio, ma nel basket molte volte gli allenatori lo fanno, cioè Dan Peterson e Valerio Bianchini sono stati cacciare decine di volte niente. Solo che poi non fa ricorso, però. No, ecco, poi il ricorso, diciamo, è stato un filino temerario. E in effetti Mazzarri non solo non ha avuto uno sconto, ma ha anche preso una giornata in più, che è sospesa nel caso lui dovesse comportarsi in maniera identica, verrebbe automaticamente a scattare. Quindi non vedremo Mazzarri né al San Paolo né a Stamford Bridge. Senti, portiamoci avanti, abbiamo un paio di minuti perché tu ci aiuti a scoprire, dopo il Chelsea, anche il Marsiglia. È una squadra che abbiamo sott'occhio oggettivamente ancora meno del Chelsea. Sappiamo che la sua caratura, anche lì non siamo certamente al Marsiglia di vent'anni fa, al Marsiglia fantastico di Getals e di alcune altre edizioni. Che tipo di avversario può rappresentare? Certo, se parliamo dell'Inter di questi giorni può essere una montagna russa. Se parliamo in termini un po' più ragionevoli? Dipende tutto dall'Inter, Gigi, perché quest'Inter che perde due partite in casa con Novara e Bologna non può far gara pari con il Marsiglia, se è quest'Inter non fortunatissima, certamente in grandissima difficoltà psicologica e credo anche fisica. Il Marsiglia non è una grande squadra, il Marsiglia non è una squadra che possa mettere in ghiaccio la qualificazione in 90 minuti, è una squadra che ha delle buone carature individuali. Valbuena, ad esempio, è un giocatore che a me piace moltissimo. Lo stesso ritorno di Brandao è un ritorno importante, perché è un giocatore abituato a giocare in questi palcoscenici. È una squadra che gioca anche abbastanza all'italiana, è una squadra che conosce bene, per via di Didier Deschamps, quelle che sono le caratteristiche dell'Inter. È curioso di questo incontro in croce tra Deschamps e Ranieri in salsa ex Juventina, e devo dirti che in condizioni normali l'Inter non dovrebbe temere granché. Anzi, quando ci fu il sorteggio di Nyon a dicembre, il sorteggio, l'accoppiamento con il Marsiglia fu un accoppiamento molto molto gradito. Io temo che in questo momento, in questa settimana, solo l'accoppiamento forse con l'Apoel di Nicosia poteva essere un accoppiamento gradito all'Inter, perché tutte le altre stanno un po' meglio. Ripeto, dipende molto dall'Inter. Un Inter migliore è un Inter ancora favorita per la qualificazione. L'Inter degli ultimi 10 giorni è un Inter pesantemente in difficoltà e che potrebbe subire parecchio il Marsiglia. Fino a pochi secondi fa Sky Sport 24 stava dando immagini magnifiche di Villas-Boas circondato dai cronisti sul lungomare di Mergellina, naturalmente la solita strepitosa giornata napoletana. Tavelli è modesto, scrive Marco, ma il suo editoriale su Facebook riguardo Napoli-Chelsea è davvero ben fatto. Pensa un po' cosa ti tocca. No, ma soprattutto editoriale mi fa tremare. Sì, anche per me era una parola grossa, però io, due righe. I messaggi sono abituato a leggerli integralmente, insomma, senza correggerli. Senti Fabio, no, adesso tra poco tu rientri. No, ti dicevo, perdonami Gigi, sì. Le immagini sono veramente molto belle, noi le proporremo ancora, perché qualche giornale inglese, poi magari sarà vero, anzi sarà certamente vero, che qualcuno ieri ha insultato Sturridge o John Obi Mikkel. Io questo non lo so, non lo voglio sindacare. Devo dirti che la passeggiata che ha fatto il Chelsea questa mattina a Castel dell'Ovo con John Terry in maniche corte, beati i napoletani, ma anche a Milano oggi non si sta malissimo, bella giornata di sole, in riva al mare, quei giocatori a fare stretching su quella passerella davvero spettacolare, ci restituisce un calcio quasi da sapori antichi, no? Abituati ai raduni blindati, addirittura alle forze dell'ordine. Lì non c'era nessuno, c'era una transenna e i tifosi a chiedere gli autografi. Quindi una bella bella scena, ve la facciamo vedere anche più spesso. Continuate a riproporla per il pomeriggio intero. Dunque, due tre cose per chiudere. Una è il contorno, e cioè oggi pomeriggio CSK Real alle 18 e domani sera invece Basilea Bayern a chiudere questi ottavi di finale. Mi ha preparato una tabella delle sue Franco Piantanide, non ha contato proprio del tutto i chilometri, però certo che questi russi, che sono fermi dal 27 novembre, dall'11 gennaio a oggi hanno girato una Orihuela nella comunità valenciana, poi sono stati alla Maga del Mar Menor nella Bassa Spagna, poi sono spostati a Marbella, sono tornati 3 giorni in Russia, hanno fatto una settimana in Turchia e adesso finalmente sono rientrati alla base a prendersi la loro reazione di freddo. Chissà se questo è, va bene, bisogna scappare dal gelo per allenarsi, però chissà se questo tour de force è il più indicato per affrontare Real Madrid. Non lo so, però io credo che il discorso generale vada, prima o poi l'UEFA lo dovrà affrontare, nel senso che nella stesura dei calendari non puoi non tenere conto delle situazioni climatiche e del fatto che le squadre russe sono oggettivamente svantaggiate dal fatto di avere un campionato che per motivi evidenti deve fermarsi per tante settimane. Non credo sia un caso che poi, se riescono a passare un turno, le russe diventano molto più pericolose. Poi la differenza la fanno la caratura dei giocatori, il CSKA andrà fuori con Real Madrid perché Real Madrid è molto più forte, non certo per il clima, che per inciso in questo momento forse penalizza di più il Real Madrid, sì, certo. Real Madrid stesso. Però se tu decidi che la Champions League deve ricominciare il 21 di febbraio e non magari a metà marzo come era una volta, almeno dai ai russi la possibilità di giocare la seconda, cioè il ritorno in casa, cioè dagli 15 giorni di cambiamento climatico in più. Poi non è detto, perché magari fra 15 giorni fa più freddo, non... Beh, vabbè, però in teoria lo scongelamento, il diritto allo scongelamento, esatto, almeno lo scongelamento. E poi in generale bisognerebbe trovare il modo di dare par condicio da questo punto di vista, perché i russi davvero hanno il campionato fermo e per loro non è certamente facile prepararsi ed avere lo stesso ritmo che hanno le altre formazioni. Poi è un problema irrisolvibile, perché a meno che la Champions League non la fai ricominciare ad aprile, così non c'è soluzione a questo punto di vista. Tra poco i vostri interventi in diretta all'800 24 00 24, tante notizie di stampo internazionale come ogni settimana. Certo che negare lo stadio Bernabeu di Madrid da parte del Real per la finale di Coppa Athletic Bilbao Barcellona, ma insomma, diciamo che non è un grandissimo gesto dal punto di vista dell'eleganza sportiva, Non è da Real Madrid e non è neanche nei confronti di Juan Carlos, al quale la Coppa è legittimamente intitolata. E poi è una cosa di debolezza, nel senso che la finale sarà tra Barcellona e Athletic Bilbao. È ovvio che quelli del Real Madrid non vogliono che il Barcellona festeggi sotto il naso, però danno già per scontato che il Barcellona vincerà e neanche possono pensare, neanche hanno voluto provare il brivido e l'ebbrezza di vedere quelli del Barcellona battuti dall'Athletic Bilbao. Certo. Neanche l'Athletic Bilbao pare simpaticissimo a Madrid, e i motivi li possiamo anche facilmente intuire. Diciamo che è la finale peggiore, no? Baschi contro catalani per il potere centrale e reale della Casa Blanca. Ecco, però proprio alla luce di questo, da un punto di vista politico, diciamo pure, anche statale, il fatto che questa coppa sia intitolata al Re di Spagna, perché è la coppa del Re di Spagna, sì. Giocarla e visto che si sono qualificate le due squadre leader, direi, no, delle spinte autonomiste, perché più che i catalani e i baschi, direi che il fatto di giocarla al Bernabeu, cioè nella capitale, dovrebbe essere invece una ragione forte da un punto di vista politico, cioè dovrebbe essere un obbligo. Secondo me è così, vorrebbe dire mettere il cappello dicendo va bene, fate pure i monelli, però quando si fanno le cose seriamente venite a giocare a casa mia, la coppa ve la consegna il re, e quindi ricevendo la coppa dal re ne riconoscete la legittimità e l'unità dello Stato. Sai, sono questi sono discorsi più grandi di noi, evidentemente. No, per carità, La bottega conta ancora e gli interessi di bottega sono quelli. Sì, la bottega e i bagni, perché la scusa presa ufficialmente, una delle scuse è che, dato che quest'estate ci sarà al Bernabeu un concerto di Bruce Springsteen in giugno, devono rifare i bagni per una migliore agibilità dello stadio, no? E per questo non danno lo stadio a Barcellona Athletic Bilbao. Devo dire che ogni tanto il comune senso del pudore anche altrove, no? Questa è una cosa che poteva dire un nostro ex sottosegretario, insomma. Ci fa piacere non essere soli nel universo, esatto, proprio così. Grazie Fabio. Ciao, saluto a tutti. Ci risentiamo giovedì a Cose Fatte per un bilancio di questa seconda parte degli ottavi di finale iniziati la scorsa settimana. Va detto che se parliamo di Real Madrid e di queste continue figuracce che fa questa società, che fa la sua guida tecnica per i suoi comportamenti e per le sue parole, è anche vero che continua a resistere, per fortuna, Arzillo, con i suoi 86 anni, un grande signore che si chiama Alfredo Di Stefano, che è stato uno dei monumenti della storia del calcio di tutti i tempi, che è presidente onorario del Real Madrid e che, leggo su questo, sull'inserto Roberto Extra Time della Gazzetta di stamane, ha deciso di donare al club il suo museo personale, che sono 659 oggetti e trofei dal valore incalcolabile. È stata una mia idea, credo che sia la soluzione ottimale, almeno così tutti i soci e i tifosi li possono ammirare. Avevo ricevuto diverse offerte, ha detto Di Stefano, ma credo che gli oggetti siano ora nelle mani migliori. Io ho visitato lo scorso anno il museo del Real Madrid all'interno del Santiago Bernabéu e vi posso garantire che già allora i cimeli di Di Stefano, di Puskas, insomma degli anni d'oro del grande Real fine anni 50, certamente non mancavano. Il fatto che adesso il vecchio Alfredo abbia deciso di donare al Real e al museo del Real tutto quello che ancora si trovava in casa, lo trovo davvero splendido, degno dell'immenso personaggio calcistico e non solo che Don Alfredo è stato e ha rappresentato per la storia del pallone. Riccardo ha chiamato dalla provincia di Venezia, buongiorno. Buongiorno, senta, ieri sentivo quel signore che ha chiamato dicendo che i giocatori della Juve correvano più degli altri, eccetera, eccetera. Effetti collaterali a 24 ore data, quindi mi sembra di capire. Sì. No, perché io ieri ero a Bologna, oggi sono a Eraclea, non sono italiano, sono polacco, però ho studiato in Italia, sono juventino da nascita, da quando giocavo a Boniek. Ah, certo. Perciò l'Inter deve ringraziare la Juventus se ha vinto quel trofeo, se ha vinto tutto, perché se non andavamo noi in Serie B, nessun giocatore della Juve andava via. Sì, e la Juve quest'anno. Peccato che avesse un impegno ieri, Riccardo, perché se no poteva darci questo contributo prezioso in tempo reale. Invece così, slittato di 24 ore, potrebbe aver perso, come dire, il bello della sua fragranza proprio iniziale. Un peccato vero, però grazie per averci comunque riprovato, per aver a suo modo rimediato. Nicola, Modena, buongiorno. Buongiorno signor Garanzini. Dica. Volevo parlare dell'esperienza che ho fatto in Spagna a proposito delle realtà autonome. Mm-hmm. Stavo facendo il cammino di Santiago ed ero del nord ed ero in un bar a vedere la finale Spagna-Olanda. Sì. Al gol della Spagna l'unico ad alzarsi in piedi fui io. E questo restai bloccato, anche perché dopo la partita praticamente non ci fu nessuna festa. Poi, se ben ricordo, perché me ne parlavano là, c'è stata un'altra finale di Coppa del Re dove si qualificarono le due squadre di Barcellona e mi sembra la squadra basca. E dopo 10 minuti il Re fu costretto ad uscire perché i fischi erano assordanti. Il problema è molto sentito e non vorrei che... È vero che il Real l'ha negato, ma perché il potere centrale politico ha avuto anche paura di anche visto la situazione economica e politica, che non semplice in Spagna come da noi, voi sì, che avesse avuto paura di questa, perché già c'è stato un precedente. Beh, sì, sì, no, ma poi in Spagna non penserà mica che ci sia la Padania in Spagna, cioè lì le realtà autonomiste, come dire, hanno qualche radice in più, soprattutto hanno della terra, hanno del territorio reale, insomma sono robe vere, non sono robe, no, presunte come da noi, quindi è una storia antica ed è una storia che ha delle radici profonde e che ha già prodotto guasti non da poco. Quello del Real è semplicemente al momento un brutto gesto, anche perché le alternative di cui si parla sono, è vero, uno è il Mestalla di Valencia, ma l'altro è il Vicente Calderón di Madrid, e quindi tutto sommato l'idea è di quello comunque di far giocare questa finale a Madrid. Se poi ci saranno problemi di come dire, contestazione, in ogni caso sperando che non degenerino in ordine pubblico reale, vabbè, questo è un altro paio di maniche, ma finché la Coppa del Re esiste, poi a un certo punto la finale la si deve giocare e da qualche parte la si deve giocare, e poiché non esiste il boicottaggio preventivo, può darsi che in finale, come è successo quest'anno, ci vadano il Barça e l'Athletic de Bilbao, insomma. Una telefonata ad un ascoltatore ancora prima di perfezionare, cioè per avere il tempo di perfezionare un collegamento con Roma. Ruben, dalla provincia di Cuneo, buongiorno. Buongiorno, Gigi. Dica. Niente, dopo aver sentito il calibro dell'intervento di ieri, ho preso coraggio e ho chiamato anch'io. Volevo volevo rispondere al tifoso interista, non ricordo se di Bergamo o di Brescia. Anche lei, ma io non ricordo, tendo a dimenticarli, sa, non mi chieda di essere più preciso, li dimentico volentieri quegli interventi. Lei invece è come il polacco di prima, lei c'ha memoria lunga, eh? No, io parlo solo del presidente, che lui diceva che Moratti non capisce niente. Invece diceva che Berlusconi e Agnelli capiscono il calcio. Io penso che Berlusconi ha la fortuna di avere un grande dirigente come Galliani, che è uno che sì veramente capisce di calcio. E invece Agnelli, uno che come idoli ha Montero e la sua squadra ha avuto Boniperti e c'ha un grande giocatore, persona come Del Piero, non so fino a che punto può capire di calcio. Tutto lì. Ma tutto quello che i gusti, grazie Ruben, i gusti siano soggettivi. Certo, un elogio così sperticato di Galliani, credo che sia, se non della competenza di Galliani, se non è inedito, ci va comunque abbastanza vicino. Eccolo il collegamento con Marco Bellinazzo da Roma. Buongiorno Marco. Buongiorno Gigi, buongiorno a tutti. Dunque oggi noi facciamo semplicemente la scaletta. Dovete sapere, cari amici all'ascolto, come dicono quelli che parlano bene, che ogni tanto capita qua in questo programma di creare dei mostri. Allora, un mostro è certamente Marco Bellinazzo, perché? Perché stamattina la Federazione Italiana Giuoco Calcio decide di organizzare a Roma la Lega Pro in particolare, di organizzare un convegno dal titolo Un contributo per nuove strategie di gestione delle società di calcio della Lega Pro. Partecipano da Petrucci ad Abete, insomma a tutti i maggiorenti del calcio italiano, e a chi affidano la moderazione di questo dibattito, per l'appunto a Marco Bellinazzo. Congratulations. Grazie, come vedi c'era la ricerca di nuove strategie, certo, passano da me, voglio dire, non stanno messi molto bene questi Lega Pro, no? A parte di scherzi, oggi c'era un incontro importante, c'erano i presidenti di tutte le leghe, c'era il presidente della Federazione Abete, c'era il presidente del CONI Petrucci. Ed è stato un convegno, Gigi, in cui è emerso non solo un grido d'allarme della Lega Pro per la situazione drammatica che abbiamo spesso raccontato, ma che con la crisi economica è diventata davvero insostenibile. Certo. D'altro canto, appunto, sono venute fuori delle proposte concrete di riforma dei campionati. Si è parlato finalmente in termini molto pratici di come arrivare alle 60 squadre e a 3 gironi di prima divisione, di finirla lì poi con il calcio professionistico, perché altrimenti andare ad aumentare il numero delle squadre significa semplicemente creare disoccupati e situazioni al limite della legalità, e di farlo attraverso anche nuove formule contrattuali. Si è parlato di un possibile, per esempio, apprendistato come formula contrattuale per i giovani di serie, che sono oltre 3.500, e di una serie di proposte legate a una fiscalità di vantaggio per chi fa contratti a giovani, con una serie C, l'ex serie C, che dovrebbe tornare a essere una lega dei territori, dei campanili e soprattutto dei giovani futuri campioni del calcio italiano. Queste sono state le proposte. Ecco, caro moderatore, lei ha preso, oltre a quello che ci ha anticipato, lei ha preso buona nota degli interventi, è in grado domani, magari degnandosi di riportare i piedi in questo modesto studio, di venirci a riferire e a raccontare in dettaglio che cosa è accaduto davvero di significativo? Mi prendo assolutamente questo impegno, ecco, se posso assumermi anche questa responsabilità. Allora, si prenda questa responsabilità che poi spezziamo, cioè che poi domani vediamo di alternare con il resoconto delle prodezze di una squadra che lei è abbastanza indifferente, mi risulta, come il Napoli. No? Sono e questa sera Perfetto. C'è un incontro con una squadra inglese, sì, non ho ben capito in che termini questa partita sarà. Sì. Ora mi informerò. Ma certo, si vedrà con calma. Appuntamento qui a domani. Grazie Gigi. Grazie. Chiudiamo questo collegamento con Roma. Sì, sto vedendo tutte le agenzie che sono uscite. In particolare c'è una frase di Abete che mi ha colpita, a parte una polemica abbastanza stucchevole con Agnelli, che non mi pare sia stato Abete a cominciare, ma questo è un altro discorso. Per cambiare lo statuto federale, ha ricordato il presidente federale Abete, per l'appunto, serve il 93% dei voti. dei voti evidentemente nel Consiglio federale, e cioè più di quanto non sia necessario per modificare la Costituzione italiana. È bello, bello blindatino lo statuto della Federcalcio. Anche questo domani sarà uno degli argomenti che Marco Bellinastro tratterà con la sua solita competenza e perizia. Prima di altri ascoltatori già prenotati, la vigilia di qualcuno, e poi un elogio assolutamente inatteso. La vigilia, per cominciare, è quella di Mazzari, che sapete stasera non andrà in panchina per la squalifica, ma che è evidentemente l'artefice della preparazione di questa Napoli. Mazzarri. Io sono fiducioso che la pressione la sappiano gestire e la trasformino, come voglio io, in energie positive, in modo da partire dal primo minuto col piglio giusto e fare una partita che di solito questo Napoli ci è abituato a vedere. Questo fatto dell'emozione non lo conosco, perché mi concentro talmente tanto sull'impegno, quello successivo, che per me preparare il Chelsea è come preparare la partita col Chievo da un punto di vista dell'allenatore. La partita perfetta, ecco, per superare queste squadre, come l'abbiamo fatto ad esempio col City, bisogna che noi siamo quasi perfetti o perfetti, che gli episodi coincidano e ci diano ragione. Bene, mentre invece l'altro spezzone che volevo farvi ascoltare è un elogio di Pep Guardiola, cioè è Pep Guardiola che parla e che elogia niente meno che Zeman, sentite. Tutti parlano cose eccezionali di lui, quindi quando un giocatore che non ha avuto parlano così bene, che è un allenatore preparatissimo, e mi sembra che da sempre, da quando è iniziato adesso, vede il calcio nella stessa maniera, lui va avanti, e questo, trovare gente come questa per il calcio fa molto bene, e mi auguro che vada in Serie A, e gente come questa con questo coraggio, che in un momento ha fatto la denuncia, ha detto quello che succedeva nel calcio italiano, le sue squadre sono vela da vedere, rispettano a tutta la gente perché vanno avanti, non importa con chi giocano, corrono come matti, quindi un attore che è una grossa ammirazione. Beh, ha un tifoso d'eccezione, direi, Zeman, perché insomma non capita tutti i giorni di sentirsi tessere un elogio del genere firmato da un certo Pep Guardiola. Salvatore ha chiamato da Roma, buongiorno. Sì, buongiorno. Dica. Sì, sono un milanese prestato a Roma. Prestato. Senta, con diritto di riscatto su questa diatriba Real Madrid Barcellona, non gli hanno dato lo stadio, no? Quindi mi sembra di capire che esista una sorta di sorpresa verso una sorta di antipatia verso Real Madrid, che prende delle posizioni quantomeno bizzarre. Io però, da tifoso interista, volevo ricordare la simpatia, no? Anche lì non eccelsa, del Barcellona, la sera in cui fu eliminato dall'Inter a Camp Nou. Tre secondi dopo la fischio di termine della partita, l'esultanza dei tifosi, dei giocatori interisti, e loro pensarono bene di accendere gli annaffiatori. Di annaffiare, è vero, è vero. È vero. No? Non fu una grande serata e un grande gesto. Mi sfugge il nesso con la scelta di un campo neutro per la finale, un campo neutro nella capitale per la finale della Coppa di Spagna. Lei il nesso me lo trova? Ma il nesso lo trovo, perché è antipatia così e basta. No, credo che appunto in Spagna, forse più che da noi, esiste proprio ormai io definirei un odio atavico fra le due squadre, che piuttosto che farsi una qualsiasi forma di bel gesto, preferiscono farsi criticare dal resto del mondo. Beh, scusi una cosa. Non ne salverei nessuno, ecco. Sì, ma se supponiamo che la finale Coppa Italia, che invece sarà con ogni probabilità Napoli contro Juventus, io credo, oppure Siena contro Milan, ma insomma diciamo che al momento la finale più probabile in attesa del ritorno potrebbe essere Napoli-Juve. Supponiamo invece che questa finale fosse Inter-X. Se la federazione avesse chiesto il miglior impianto oggi oggettivamente disponibile d'Italia, e cioè lo stadio della Juventus, per farci giocare l'Inter in campo neutro, secondo lei come l'avrebbero presa? Ma forse è una bella domanda. Non è una bella domanda, è per dire quello che si diceva prima con Tavelli, che tutto il mondo è paese. Dopodiché, se la rivalità Juventus-Inter in Italia dura in maniera dura, Da 51 anni direi, dal 61 in particolare, non che prima fosse così tenera e affettuosa, ma insomma diciamo che si è avvelenata dal 1961, io credo che quella tra Reale e Barcellona abbia radici ancora più profonde e quindi i risultati poi si vedono a ogni piede sospinto. Andrea Milano, buongiorno. Sì, buongiorno, sono Andrea da Milano, tifoso interista. Ti volevo parlare un attimo del centrocampo dell'Inter, ecco. Tutti i nuovi acquisti che sono stati fatti, chiamiamoli nuovi, quindi Poli, Faraoni, sono tutti dei, come dire, delle coppie di Cambiasso. Io credo che per il tipo di attaccanti che l'Inter ha, quindi mi sembra di profondità, come può essere Pazzini oppure Milito, per supportare, come dire, questi due giocatori ci vogliono dei centrocampisti dove sì, va bene, corrono, si sbattono, eccetera, però devono avere soprattutto i piedi buoni, perché comunque Cambiasso non è che abbia dei grandissimi piedi, ogni tanto fa un bel passaggio, un bel lancio, però insomma sono più le palle che recupera. Ecco, credo che l'Inter abbia bisogno di questo, ci stanno i Poli, i Faraoni della situazione, ma deve assolutamente acquistare almeno due centrocampisti con i piedi, ma buoni veramente. Sì, per il momento mi pare che abbia acquistato una batteria di centrocampisti da una squadra che lo scorso anno è retrocessa dalla B, o sbaglio? Sì, sì. E quindi. Non hanno i piedi buoni. Al di là, io non so dire se oltre i piedi hanno buono. Non entrerei nel merito della qualità. Dico che non un pezzo pregiato, ma una serie di pezzi di una squadra che lo scorso anno è retrocessa. È un modo, come dire, abbastanza discutibile per rafforzarsi, così almeno avrei una galleria abbastanza abbondante di voci interessantissime da sentire. Sono voci milaniste che dicono grosso modo che a questo punto favorita potrebbe essere la Juventus, e sono voci invece juventine che dicono che favorito dovrebbe essere il Milan. Io tenderei a risparmiarmele così a spanne, e una volta ricordato che Mario Beretta è il nuovo allenatore del Cesena ed è il terzo già della stagione, e credo che Cesena meriti degli auguri molto particolari, molto calorosi, perché in genere quando si arriva al terzo allenatore di stagione è l'anticamera della fine, e invece magari in questo caso sarà l'inizio di chissà quale riscatto. Detto questo, dicevo, passerei al Sembra Ieri del 21 febbraio a cura di Nicola Filippone. Sembra Ieri. 21 febbraio 1977. Nereo Rocco torna a San Siro e ripristina la pace tra il Milan e il suo pubblico. I rossoneri, sorprendentemente in zona retrocessione, ottengono una proverbiale vittoria a scacciacrisi, imponendosi per 3-0 sulla Sampdoria, grazie a una doppietta di Morini e a un gol di Calloni. Rocco, che era stato chiamato la settimana prima per sostituire Marchioro e aveva iniziato con una sconfitta a Perugia, riuscirà a non far precipitare la situazione. Il Milan chiuderà il torneo al 10° posto e riscatterà una stagione deludente con la Coppa Italia, ottenuta battendo l'Inter in finale. Così a spanne direi con due gol di Braglia, ma stiamo parlando però di 35 anni fa, quindi, e comunque non era già più Rocco a quel punto il responsabile tecnico. Rocco era rimasto come direttore tecnico, ma si era già insediato il nuovo allenatore ingaggiato nel frattempo, che era per l'appunto Nils Lidl, che preparò gestì la preparazione di quella finale di Coppa Italia, che aveva il Milan nettamente sfavorito e che invece poi andò al Milan, forse, ripeto, con due gol di Braglia, ma mo vediamo. Giuseppe ha chiamato da Venezia, buongiorno. Buongiorno dottor Garanzini. Dici. Io sono un tifoso juventino, sì. E sabato sarò a Milano a vedere la partita e sono contento di come va la squadra quest'anno. Vorrei vedere che non fosse contento. No, per come vado a finire, almeno quando ci sediamo davanti alla TV, rispetto ai due anni, ci fa divertire. E una considerazione però sul mercato della Juve: ho visto che ha fatto grosse spese, vedo però Krasic 15 milioni in panchina, Elia 9 milioni in panchina, e Muriel un acquisto che avevamo un parco attaccanti di un certo spessore, non mi pare che servisse, e in più Vucinic, un buon giocatore. incostante, però penso che in futuro si verificherà il suo carattere, che creerà problemi. Già sabato ha dimostrato un po' sentire la difficoltà di sedersi in panchina. E ascolto la sua considerazione per altri. Ma grazie. Ne ha già fatte tante lei, Giuseppe, che mi sembra che possano bastare per il momento. Denis ha chiamato da Cesena, buongiorno. Sì, buongiorno Gigi, grazie per l'opportunità. Io ho chiamato per una considerazione, che domenica ero allo stadio a vedere Cesena-Milan e ho visto dei giocatori del Cesena, francamente... Io parlo soprattutto da tifoso. Pensavo inizio stagione che il Cesena si sarebbe salvato tranquillamente, visti gli acquisti e visti i nomi. E non riesco, ancora non sono riuscito seriamente a capire il perché il Cesena si trova in questa situazione. Mi sembra, vedendo la partita di domenica, al di là dei meriti del Milan, mi sembra di aver visto veramente un Cesena proprio di fronte ad una resa incondizionata. Anche l'allenatore, io non penso neanche che le colpe fossero tutti da Rigoni, al di là anche della stima che poi ho verso l'allenatore che abbiamo avuto, però io non so, lei pensa che ci si possa salvare? L'ho detto prima, penso che sarà molto difficile, penso anche che quando una squadra, insomma la statistica dice, ci aiuta in questi casi a ricordare che quando una squadra cambia 3 volte guida tecnica nel campionato è difficile che il terzo riesca a fare quel miracolo che i primi due non sono stati capaci di fare. È molto improbabile. Il calendario di oggi, vi dicevo, allora 20:45 è ovvio che il Super Clou è Napoli-Chelsea, però alle 18 gioca il Real Madrid già in diretta a Mosca in casa del CSKA, e non dimenticherei alle 18:30 un recupero di campionato che è Bologna-Fiorentina. La vigilia del Bologna, reduce dalla grande impresa di San Siro, Pioli. Ma sicuramente è stata un'ottima partita, un risultato prestigioso per la società, per i nostri tifosi, 3 punti importanti per la nostra classifica, che però è ancora lì e ci fa capire ancora quanto dobbiamo correre e quanti punti dobbiamo fare ancora per ottenere la salvezza. Quindi solamente soddisfazione, ma già archiviata, perché già domani sera scenderemo in campo contro la Fiorentina, contro un altro avversario molto impegnativo, e noi abbiamo bisogno di tutte le nostre energie per cercare di muovere ancora la nostra classifica. Ci ho preso al 50%, non è male. Un gol di Braglia e uno di Maldera decisero quel Milan-Inter di finale Coppa Italia 77. È vero però che, quindi 50%, ma direi qualcosina in più, perché Braglia fu il capocannoniere di quella Coppa Italia con 6 gol, al pari di Egidio Galloni, altro che sciagurato Egidio, perlomeno in quella manifestazione, in quell'anno, nel 77. Dunque, mi sembrava ci fosse ancora un ascoltatore collegato, che invece mi sembra sparito dal display. E quindi facciamo così, sentiamo intanto la vigilia di Delio Rossi di questo Bologna-Fiorentina. È sempre la testa che manda le gambe, ma non penso, cioè se uno sa quello che deve fare, è coinvolto in quello che deve fare, sicuramente più avvantaggiato, anche se sta benissimo di testa o sta malissimo di testa. Ecco, noi dobbiamo migliorare, diventare ancora più squadra sotto questo punto di vista. Penso che la verità stia nel mezzo, quindi cioè bisognava avere equilibrio prima e bisogna avere equilibrio adesso. Noi veniamo da una sconfitta, ma non è che deve cambiare il nostro modo di essere perché abbiamo vinto o abbiamo perso. 18:30, vi ricordo, Bologna-Fiorentina, recupero di campionato. Alberto da Milano, buongiorno. Buongiorno. Dica. Complimenti per la trasmissione. Io sono tifoso interista, e quello che dispiace di più del tifoso interista è sentire delle critiche per dei giocatori che hanno dato per la maglia, come Zanetti, Cambiasso, eccetera, e Milito e tutti gli altri, un tifo un po' direi cattivo. Io non credo che sono diventati dei brocchi tutti quanti, credo che ci sia un problema psicologico molto più profondo, per quanto volevo sapere qual era il suo pensiero. Problema anagrafico, credo, più, più profondo, problema di convinzione in se stessi, problema di rafforzamenti che invece sono stati indebolimenti, ma sullo sfondo di tutto, a parer mio, la schizofrenia nella scelta delle guide tecniche che si sono succedute dopo Mourinho. Io penso che in meno di 2 anni passare da Mourinho a Benitez, da Benitez a Leonardo, da Leonardo a Gasperini, da Gasperini a Ranieri, non solo siano troppi cambi, ma siano soprattutto non ci sia una non ci sia nessun cambio che abbia un senso rispetto al precedente o al successivo. Cioè mi pare un gioco con le figurine che in genere veniva fatto con i calciatori, che invece in questo caso è stato fatto con gli allenatori, e credo che abbia prodotto conseguenze anche più nefaste. Grazie a Franco Piantanida in redazione, a Roberto Scaltritti in cabina di regia. Appuntamento a domani.